sono le 13. GR24, il sole 24 ore. La guerriglia cecena colpisce a Mosca, donne kamikaze si fanno esplodere nel metro, 36 le vittime. Urne aperte fino alle 15 per le regionali e rincorsa contro l'astensione. Lombardo indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, lui si difende. Stupro di gruppo in una scuola media, arrestati due giovanissimi, il ministro Gelmini chiede provvedimenti. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati e in apertura torniamo a Mosca. Questa mattina un attentato kamikaze in metropolitana ha fatto 36 vittime, a rivendicarlo la guerriglia cecena. Gli attacchi terroristici a Mosca non riusciranno a destabilizzare la situazione politica e sociale del paese. L'operazione contro i separatisti ceceni non sarà fermata. Mentre Mosca piange le vittime di un duplice attacco dinamitardo, il presidente Dmitry Medvedev ha incaricato la polizia, i servizi segreti e anche i militari a fare tutto il necessario per trovare i mandanti. Il dito accusatore del Cremlino è puntato contro la guerriglia separatista cecena, che in questo modo avrebbe punito la Russia per l'uccisione nelle ultime settimane in Cecenia dei due capi della guerriglia, Abu Khaled e Said Buryatski. Gli attacchi sono stati condotti da due donne kamikaze che indossavano delle cinture contenenti circa 3 kg di tritolo ciascuna, con dentro anche bulloni e pezzi di ferro per colpire più persone possibile. È stata aumentata notevolmente la presenza delle forze dell'ordine alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti, mentre la polizia e gli agenti dei servizi segreti cercano altre due donne che avevano accompagnato le donne kamikaze fino all'ingresso della metropolitana. Vladimir Sapochnikov, GR24, il sole 24 ore, Mosca. Questo quanto accaduto questa mattina. Salutiamo Antonella Scott, buongiorno. Buongiorno. Antonella, si punta, dicevamo, sul terrorismo caucasico. Dietro a questa espressione c'è un enorme problema irrisolto per Mosca. Sì, infatti l'errore era stato pensare che ormai la guerriglia con la fine dell'operazione antiterrorismo in Cecenia si fosse indebolita al punto di non poter più condurre attacchi del genere proprio nel cuore di Mosca, come ha osservato qualcuno questa mattina proprio andando a salutare gli uomini del KGB sulla loro soglia. Una delle stazioni del metro è la Lubyanka, la sede dell'ex KGB. E nelle ultime settimane le forze speciali russe avevano messo a segno una serie di operazioni uccidendo alcuni capi ribelli e Dokumarov, quello che è l'autoproclamato emiro del Caucaso, l'attuale leader della guerriglia islamica, aveva lanciato un avvertimento chiarissimo, aveva detto proprio il 14 febbraio scorso: porteremo la guerra nelle case, nelle strade dei russi, perché non si dimentichino, perché non pensino che la guerra è da qualche parte, in qualche posto lontano del Caucaso. Hanno proprio dimostrato che sono perfettamente in grado di volere poter fare ancora azioni di questo genere. E di portarla proprio nel cuore di Mosca. Antonella, non è nuovo anche l'uso di donne kamikaze, peraltro, da parte di questo tipo di terrorismo? Sì, qualcosa che ci riporta a quello che era successo anni fa nel teatro di Mosca, la Dubrovka, una delle grandi tragedie che ricordiamo a opera del terrorismo ceceno. Erano state proprio due donne, un gruppo, un comando di donne kamikaze. Non è stata neanche quella la prima volta. È proprio la testimonianza che mentre si pensava che in qualche modo con la Cecenia passata in mano a Ramzan Kadyrov, il nuovo leader della Repubblica, che con un certo ritorno, anche un certo miglioramento della situazione economica in Cecenia, che la guerriglia non avesse più ancora così tanta presa sulle persone, che quindi non fosse più così in grado di trovare dei martiri pronti a sacrificarsi. Cosa che non è. Grazie Antonella Scott. Torneremo naturalmente ad occuparci nel corso della giornata, ora però veniamo in Italia. Urne ancora aperte, si vota fino alle 15 per le amministrative, ieri in forte calo l'affluenza. Per sapere come sarà andata bisognerà aspettare la chiusura dei seggi quando ci saranno i dati definitivi, ma intanto andiamo a Roma, dove in studio con noi c'è Simone Spezia. Buongiorno Simone. Buongiorno Anna e buongiorno agli ascoltatori. Vi segnalo un dato. Se il dato ufficiale indica un'affluenza al 47% alle 22 di ieri, c'è un dato ufficioso che la indica al 46,2%. Perché? Perché le rilevazioni fatte dal Viminale riguardano solo 9 delle 13 regioni chiamate a scegliere i governatori. Per effetto delle leggi elettorali locali, Toscana, Marche, Calabria e Puglia hanno comunicato autonomamente i dati relativi al proprio territorio. Calcolando questo dato, l'affluenza risulterebbe in calo di circa il 10%. Colpisce particolarmente il dato del Lazio, un calo del 12,5% dell'affluenza, e colpisce anche quello della provincia dell'Aquila. Sentiamo nel servizio com'è andata. Quasi 12 punti in meno. Chiamata ad eleggere il nuovo presidente della provincia, ieri l'Aquila ha disertato le urne. Il dato provvisorio sull'affluenza si è fermato al 47,09% contro il 58,85% della precedente consultazione, le provinciali del giugno 2004. In attesa del dato definitivo viene chiamata in causa la dislocazione dei seggi in seguito ai danni provocati dal terremoto. In molti, viene fatto notare, non sapevano dove andare a votare, senza considerare il fatto che tanta gente vive ancora negli alberghi sulla costa o all'interno. Il sindaco Massimo Cialente parla di un voto complicato e per questo eroico. Fabrizio Panbianco del Comitato 3:32, la rete cittadina nata dopo il sisma, si spinge oltre. Più che voto eroico, pensiamo che la vita qui all'Aquila sia eroica. I metodi adottati in questo terremoto hanno portato alla disgregazione sociale. Abbiamo problemi a reclutare i cittadini persino per cose importanti come questa. Ecco, insomma, non c'è la facilità di trovare molti servizi, anche per trovare la posta abbiamo problemi, ecco. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Al di là di un calcolo su quelle che sono le regioni messe meglio sul fronte dell'affluenza, si può citare l'Emilia-Romagna, certamente il calo è comunque generalizzato, perché in Emilia-Romagna, dove si è superata la soglia del 50%, si registra comunque un gap di 9,5 punti. In chiusura di questo collegamento vi do una notizia di quasi cronaca nera, perché una parola di troppo, l'accusa di aver organizzato una compravendita di voti, hanno scatenato una rissa all'esterno di un seggio elettorale di Pomigliano d'Arco. Alle porte di Napoli ci sono 6 persone arrestate per rissa aggravata. A te, Anna. Grazie Simone. Se bassa è l'affluenza, si parla invece di un ritorno dei giovani ai seggi, perlomeno come scrutatori, complice forse anche la crisi. E allora è andata a curiosare per noi nei seggi milanesi Irene Privitera. Ecco che cosa le hanno raccontato. Quanti anni hai? 22, studio ingegneria al Politecnico di Milano. È già la seconda volta che lo faccio, mi sono iscritta perché è una possibilità di guadagnare qualche soldo in un weekend ed è interessante comunque, si incontrano molte persone, un po' di tutte le età. Come mai hai scelto di fare questa esperienza? Per guadagnare qualche soldo, perché appunto sono disoccupato, la crisi è pesante. Essendo al primo all'università non ho un impegno fisso, non sono obbligata a frequentare, quindi posso gestirmi meglio i miei tempi. Quanti giovani ci sono? Ma sicuramente tanti, peccato che non si possa dire lo stesso alle persone che vengono a votare. Quest'anno sono molti giovani, perché non c'è lavoro, anzi qualche soldo va bene, però 120 euro... più o meno qua ti passi tutta la giornata, sono veramente pochi. Pensi che il compenso sia adeguato? Per il numero delle ore no, perché alla fine facendo un calcolo più o meno vengono 5 euro netti all'ora, però cioè, si può fare se uno ha bisogno di soldi, soprattutto in questo periodo va bene. Alle 15, lo ricordiamo, la chiusura dei seggi, alle 15 cominceranno anche le nostre dirette. Fino alle 17 tutti i dati aggiornati e i primi commenti, poi dalle 18 alle 18.30 l'analisi in diretta con il nostro direttore Gianfranco Fabi e poi ancora su Radio 24 diretta elettorale fino a voto delineato. E intanto con la chiusura dei seggi da oggi tornano in onda anche i talk show di Informazione Rai. Da questa sera ad urne chiuse tornano tutti i talk show della RAI sospesi durante la campagna elettorale in nome della par condicio. Il primo ad andare in onda è oggi Porta a Porta di Bruno Vespa. Domani sarà invece la volta di Ballarò con Giovanni Floris. Giovedì toccherà poi al contestatissimo Anno Zero di Michele Santoro, che andrà regolarmente in onda nonostante le polemiche per RAI per una notte, il talk show di giovedì scorso contro la censura trasmesso su TV satellitari e web. Venerdì infine sarà il turno di Ultima Parola di Gianluigi Paragone. Resta resta però ancora accesa la discussione sui rapporti Santoro-Rai. Il presidente Paolo Garimberti ha frenato il tentativo del direttore generale Mauro Masi di convocare un CDA straordinario per occuparsi con urgenza del caso. Masi vuole che si faccia una profonda riflessione sulle regole aziendali e su come applicarle in futuro. Una riflessione che dovrebbe concretizzarsi rapidamente in una nuova prassi. Quanto all'audience, Rai per una notte, secondo una ricerca di Human Highway, è stata seguita da almeno 4 milioni di italiani, il 10% in più degli spettatori che mediamente guardano Anno Zero. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Una lettera con minacce, offese all'arcivescovo di Genova e presidente della CEI, cardinale Angelo Bagnasco, è stata recapitata nei giorni scorsi alla curia arcivescovile. I carabinieri, che in questi giorni hanno responsabilità della scorta, precisano che questa non è stata rafforzata né la lettera conterrebbe minacce di morte tali da insospettire gli investigatori. Sembrerebbe invece che a innescare l'anonimo sarebbero state le dichiarazioni del presidente della CEI a pochi giorni dal voto sul tema dell'aborto. Andiamo ora in Sicilia, sarebbe indagato il governatore Lombardo, alle 15 è convocato il Consiglio regionale, ma c'è chi chiede le dimissioni. Concorso esterno in associazione mafiosa, questa è la gravissima ipotesi di reato per la quale, secondo il quotidiano La Repubblica, sarebbero indagati il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo ed il fratello, il deputato nazionale dell'MPA Angelo. Secondo l'ipotesi al vaglio dei magistrati della procura di Catania, il governatore ed il fratello avrebbero avuto contatti con un uomo arrestato ad ottobre, Vincenzo Aiello, considerato vicino ad alcuni fedelissimi del boss detenuto Nitto Santapaola, e avrebbero avuto l'appoggio elettorale del clan. L'inchiesta, condotta dai carabinieri del ROS e nella quale sarebbe indagato anche il deputato regionale dell'UDC Salvino Fagone, si baserebbe sulle dichiarazioni di un pentito e intercettazioni ambientali. Le intercettazioni però non riguarderebbero direttamente Raffaele Lombardo e nemmeno il fratello, visto che, secondo i carabinieri, le cimici collocate nell'auto di Angelo Lombardo sarebbero andate distrutte. Per il procuratore capo di Catania, Enzo D'Agata, comunque, la pubblicazione della notizia sull'inchiesta su Lombardo potrebbe avere una matrice politica. Il procuratore giustifica l'operato dei giornalisti, ma sottolinea che potrebbero esserci dietro interessi e contrapposizioni di natura politica dei quali i giornali divengono a volte involontario strumento. Per questo un fascicolo sulla fuga di notizie sarà trasmesso alla Procura di Messina. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Catania. E maxi stangata di Pasqua sul fronte dei carburanti. Secondo il Codacons, chi deciderà di partire dovrà mettere in conto, rispetto allo scorso anno, un aggravio di spesa di 10 euro per un pieno di benzina, 8,75 euro per un pieno di gasolio. Le 13:16 minuti, torniamo in studio con il riepilogo delle principali notizie di oggi. La guerriglia cecena colpisce a Mosca, due donne kamikaze sono fatte esplodere nel metro, 36 le vittime. La condanna unanime arriva ora anche dagli Stati Uniti, il presidente Obama dice sono un'atrocità. Urne aperte fino alle 15 per le regionali, rincorsa contro l'astensione, ieri alle 22 l'affluenza è stata del 47%, 9 punti in meno rispetto alle precedenti consultazioni. In Sicilia il governatore Lombardo indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, lui si difende e dice non ho mai avuto rapporti con i boss. E siamo alla pagina della cronaca che si apre con una brutta storia, violenze nei confronti di una bambina di 12 anni, violenze che sono avvenute in classe. La notizia arriva da Brescia, Maria Piera Ceci. Sì, Anna, i protagonisti di questa brutta vicenda sono i ragazzi di una media di Salò, in provincia di Brescia, appunto. Due ragazzi di soli 14 e 15 anni sono stati arrestati per violenza sessuale ai danni di una loro compagna di scuola di appena 12 anni. Coinvolto nella violenza anche un terzo ragazzo che resta a piede libero perché è minore di 14 anni. Il tutto è avvenuto durante una lezione, mentre il professore, che è stato poi sospeso, interrogava. Come ci racconta il capitano Pietro D'Imperio, sentiamolo. Tutto il fatto, più di mezz'ora, viene interrotto dal suono della campanella e ci sono una gran parte della classe che poi si era messo a mo' di schermo per impedire il professore che stava effettuando le interrogazioni in classe vedesse la scena. Ecco, la verità è poi emersa da un compito in classe, ha portato alla sospensione dei tre ragazzi e della stessa ragazzina. Di fronte alla sospensione però la bambina ha raccontato tutti i dettagli ed è scattata la denuncia dei genitori. Dalle indagini condotte dai carabinieri, i tre ragazzi maggiormente coinvolti sarebbero ben noti sia alla scuola che alle forze dell'ordine per episodi di bullismo e veri e propri reati come il furto di soldi e cellulari, anche in questo caso ai danni dei compagni di classe. In chiusura il commento del ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini, che parla di un episodio di una gravità inaudita e inaccettabile. A te. Grazie a Maria Piera Ceci. Ieri un'altra storia che ha coinvolto giovanissimi per gioco. Un gruppo di 13 ragazzi ha attraversato l'autostrada A7 Milano-Genova di corsa, evitando di farsi travolgere da auto e camion, filmando il tutto con i telefonini per mettere poi video su internet. Fermati e segnalati alla polizia, al Tribunale dei Minori di Genova, i ragazzi tra i 13 e i 16 anni rischiano ora una serie di denunce per procurato allarme, attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento. I genitori interrogati hanno parlato di bravata dei loro figli. Alberto Pellai, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Una voce nota ai nostri ascoltatori. Hai sentito, a questa in realtà si è aggiunta anche l'altra notizia che ci ha appena dato Maria Piera Ceci. Ragazzi senza più freni o colpa dei genitori? Ma direi, magari parto proprio da questa seconda notizia di cui sappiamo più cose. Mi sento di dire che i genitori, ecco, devono proprio distinguere tra cosa è una bravata e cosa è invece una situazione penalmente perseguibile, e tra l'altro che mette a grave rischio la vita o dei loro figli o di amici dei loro figli. In questo secondo caso, per esempio quello dell'autostrada di Genova, la polizia ha posto un limite salvavita ai ragazzi, ed è fondamentale che dei genitori, confrontati dalle forze dell'ordine che raccontano un fatto così grave, generino immediatamente un'alleanza educativa con adulti che si sono fatti carico della tutela della salute dei loro figli. Alberto, una domanda che noi ci poniamo sempre, perché anche noi stiamo raccontando questa storia, stiamo raccontando anche quest'altra storia che arriva questa mattina da Brescia, la domanda ce la facciamo ogni volta: si rischia l'effetto emulazione? Ma da una parte potrebbe essere, cioè di nuovo è molto interessante verificare che nel secondo episodio, quello di Genova, i ragazzini poi speravano proprio di riuscire a riprendersi con le videocamere dei cellulari per caricare tutto su YouTube, e quindi l'idea di amplificare la rappresentazione di sé attraverso descrizioni con immagini che vengono fatte vedere anche a un mondo che non ti conosce, che però ti può in quel senso riconoscere un valore, anche se per cose così paradossali, nei ragazzini è molto forte. Il problema dell'emulazione è anche che i ragazzi però effettivamente non hanno la chiarezza di cosa si può fare, cosa non si può fare. Hanno questa rincorsa di un senso di sé onnipotente su cui l'adulto deve davvero mettere confini e paletti, e la loro escalation in rischi sempre più forti, sempre più intensi, sempre più grossi richiama il bisogno sulla scena educativa di genitori, di adulti che proprio come un po' i poliziotti hanno fermato tutto, hanno detto no, e questa cosa avrà delle conseguenze. Grazie ad Alberto Pellai. Noi voltiamo pagina, cambiamo argomento, andiamo all'estero. I talebani hanno sparato la notte scorsa 2 razzi contro la base aerea statunitense di Bagram, un'ora dopo la partenza del presidente Barack Obama dall'Afghanistan. Nella base Obama aveva riservato parole dure per i talebani, assicurato che finché lui sarà il comandante supremo delle forze armate non sarà permesso agli insorti di ritornare al potere. Con la vicenda degli scandali pedofilia nella Chiesa si riapre il dibattito sul celibato per i sacerdoti, e a Vienna ci si affida ad una donna. La Chiesa austriaca ricominciò da una donna per superare lo scandalo degli abusi sessuali. Si chiama Waltraud Klaspich, 64 anni, 3 figli. Sarà lei a presiedere la commissione voluta dal cardinale Schönburg per far luce sugli scandali sessuali. Giovedì il primo incontro per decidere come procedere, come impostare il lavoro, anche se, ha già spiegato l'arcivescovo di Vienna, il suo operato sarà indipendente. Schönburg dunque torna alla ribalta dopo la proposta lanciata qualche settimana fa, ma poi rettificata, di rivedere l'obbligo del celibato sacerdotale. Posizione rilanciata, e non è una novità, dal cardinale Carlo Maria Martini. Per l'ex arcivescovo di Milano deve essere sottoposto a ripensamento l'obbligo come forma di vita. In molti però nella Chiesa non condividono questa posizione. Per il cardinale Casper, ad esempio, ministro vaticano per l'unità dei cristiani, il celibato non ha nulla a che vedere con gli abusi sessuali. La stragrande maggioranza delle violenze, ricorda infatti Casper, avviene nella famiglia e non in ambiti ecclesiastici. Solidarietà al Papa intanto è stata espressa dall'attuale arcivescovo di Milano. Noi, ha detto il cardinale Tettamanzi, amiamo la Chiesa ed amiamo il Papa. Ci sentiamo a lui vicini in questo momento particolare. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Una lettera arrivata questa mattina nel moltissimi ospedali italiani. Poche righe per mail per vendere i propri organi, anche il cuore. La provocatoria proposta in Italia, infatti, la legge vieta espressamente ogni forma di commercio di organi, arriva da una donna di 51 anni che abita in provincia di Firenze. Scrivo, dice, per mettere a disposizione i miei organi, compreso il cuore, perché non so più come vivere e come mantenere mia figlia. La Volvo diventa cinese. Ieri la firma con la GLI e passa di mano un marchio che per l'Europa è anche un pezzo di costume. Il fascino delle auto svedesi rimarrà immutato nei film. Elegante e solida come una tedesca, ma dall'aria forse ancora più aristocratica perché più nordica. Perderà il suo fascino la Volvo ora che non è più svedese ma cinese? Per sgomberare il campo dai sentimentalismi occorre sottolineare che non ci dimentichiamo come, in tempi di aggressivo product placement, le auto nei film siano una sponsorizzazione come le altre. E se il sexy vampiro di New Moon seduce a bordo di un bolide argentato, non è perché ha certi gusti in fatto di auto, ma perché nei film adesso funziona così. Il nuovo film della saga Twilight, e provala. In passato a volte la Volvo è entrata anche nel titolo del film, come nel perdibilissimo 101 Ways, una cosa che una ragazza è disposta a fare per conservare la sua Volvo, cioè per continuare a pagare le rate. Ci sono poi i 4 minuti del corto di Gus Van Sant, Four Boys in a Volvo. All right? You don't understand. I'm in trouble. I'm being followed by two men who are trying to kill me. L'Amazon si vede in intrigo a Stoccolma in oltre 200 film. Secondo l'Internet Movie Cars Database è superata solo dalla V70, dalla 244 e dalla 245, ma la più usata è la 740 in 369 scene, fosse pure solamente parcheggiata sullo sfondo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Questa mattina, bianco o nero, nel sondaggio di oggi vi chiedevamo se vi fidate o meno dell'omeopatia, una pratica che molti italiani giudicano una vera e propria medicina alternativa, mentre gran parte della comunità scientifica giudica inefficace. Ebbene, avete risposto in oltre 2000 e la maggior parte di voi, il 59%, dice di non fidarsi dell'omeopatia. Siamo allo sport, il calcio. Quella di ieri è stata una domenica all'insegna delle violenze degli ultra. Lanci di uova, lanci di bottiglie, poi un colloquio dei capi popolo con Capitan Del Piero. E poi, al momento di salire in pullman verso lo stadio, un ultra che rifila uno schiaffo sul collo di Jonathan Zebina, difensore da tempo in rotta con la curva bianconera. La vittoria sull'Atalanta è l'unica cosa da salvare della domenica della Juventus. Nel prepartita, la contestazione violenta degli ultra, fino allo schiaffo a Zebina, appunto, commentato così dal giocatore. Io ho le idee ben chiare su questi gruppi, alla fine, con idee estremisti. È solo un fatto di problemi di razzismo. E quello di Torino è stato solo l'episodio clou di una giornata che ha visto la contestazione e il lancio di petardi della curva livornese, l'incrocio pericoloso tra tifosi genoani e baresi in un autogrill sulla 1 in Toscana e i cori razzisti degli ultra laziali contro il milanista Seedorf a San Siro. Un pessimo biglietto da visita per un calcio, come quello italiano, che è in corsa per ospitare gli europei 2016. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13:27. Vi ricordo, seggi ancora aperti per il voto alle 15 la chiusura e dalle 15 cominceranno anche le nostre consuete dirette elettorali su Radio 24. Dalle 15 alle 17 tutti i dati aggiornati, i primi commenti, collegamenti con le regioni al voto. Poi dalle 18 alle 18:30 l'analisi in diretta con il nostro direttore Gianfranco Fabi e poi come sempre ancora diretta elettorale fino a tarda sera, prima con Giuseppe Crociani e poi con i nostri speciali fino a voto delineato. Domani mattina nei nostri giornali radio poi come sempre tutti gli aggiornamenti. Comincia alle 15 dunque il lungo pomeriggio elettorale di Radio 24. Noi per il momento invece ci fermiamo qui, c'è Italia in controluce, un saluto ancora da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione del giornale, in regia Carmelo Lauricella. Ancora una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.